Allora, buonasera da parte di Max Macchia, che vi saluta già, insomma, come dire, in odore di gracchiamenti, ma insomma immediatamente mettiamo a posto la voce. E questa sera tornato appunto nelle vesti di conduttore radiofonico, non che altre volte sia stato in altre vesti, ma in questa serata in particolar modo per 451 frammenti sonori, che torna un po' sull'idea del homemade. Però questa sera Home Entertainment tratterà, diciamo, in particolar modo musiche che sì, vengono da comunque lavorazioni che provengono da lavori casalinghi, da atteggiamenti, potremmo dire, punk, come attitudine, poi come sonorità assolutamente no, anzi toccheremo anche tutt'altri lidi, ma che hanno del fai da te, modus assolutamente operandi, nel senso che riesce appunto anche a staccarsi da un'idea, insomma, di composizione anche piuttosto importante, che trattando gli anni, soprattutto tra fine 70 e primi anni 80, appunto c'era stato il punk, comunque stava tornando, diciamo, anche una certa qual misura anche la produzione anche che poi a distanza di pochi anni diventerà anche piuttosto ridondante, una produzione sonora molto molto levigata, molto leccata anche per molti versi, che prenderà soprattutto il pop, ma non solo quello, anche il new pop, quello nato appunto dalle esperienze della new wave, quindi di conseguenza anche dal punk, dall'onda nata dalla rottura punk, poi col passare del tempo quel suono sporco, cartavetrato, che era appunto del punk, verrà parecchio addomesticato, quindi un suono che decisamente sarà appunto materia di trattamento hi-fi, potremmo dire. Beh, in effetti taravano anche l'hi-fi proprio su ex gruppi che avevano fatto anche cose piuttosto sperimentali, anche in termini sonori, di sporcizia sonora. Ricordiamo, insomma, ogni tanto parabole un po' disgraziate, anche se vogliamo, quella ad esempio di Viceversa e ABC, tanto per citarne una, un suono decisamente elettronico, sporco, vicino alla Cold Wave, a certo industrial, e poi diventato, insomma, ABC, quindi un suono pop levigatissimo, seppur anche con punti anche interessanti di levigatura, perlomeno nel primo periodo, e di lavorazione appunto in questo senso. Quindi è un po' anche questo l'aspetto che andremo a trattare questa sera, nel senso opposto, cioè un suono che comunque ancora si vuole, è una composizione che si vuole appunto sviluppata attraverso appunto una tecnologia elettronica homemade, che poi non perde, anzi per molti versi acquisisce anche proprio per questa capacità di trattare in maniera così diretta, immediata, potremmo dire, anche appunto le elettroniche così basiche, quella comunicatività che traspare, veramente esce fuori dalle musiche che appunto tratteremo stasera in Home Entertainment. Per iniziare, Sam Rosenthal, che più conosciuto alla fine degli anni 80 con progetti decisamente levigati come suono, una sorta di potremmo dire dark, molto, molto dilatato, mischiato con forme di dream pop che poi porteranno Rosenthal anche verso altri lidi veramente più dream, ma più dream house, quindi più legati a forme di drone music e di forme statiche. Rosenthal nei primi lavori che insomma erano molto influenzati anche da quella che era la trance californiana di quegli anni, quindi di A Produce, di Savage Republic, questo suono sporco che a volte toccava anche l'elettronica, ma non per forza, seppure dentro Viva Los Angeles, che abbiamo trattato qualche trasmissione fa, 451 frammenti sonori proprio dedicata ai suoni californiani degli anni 80, c'era tanto di rock chitarristico desertico anche che anticipa le escursioni desertiche di certo suono degli anni 90, ma anche appunto elettroniche molto basiche, ma con un linguaggio se vogliamo molto spesso anche così, con questa poesia desolante che può dare appunto anche la spazialità che c'è nelle musiche della potremmo dire movimento trans californiano degli anni 80, sia con la spazialità proprio fisica anche californiana che dentro le musiche appunto elettroniche di Sam Rosenthal, di Tanz Music, quindi anche un riferimento se vogliamo a altre praterie più mentali, forse praterie extraterrestri, cosmiche appunto, a titolo una sorta di omaggio ai cosmici che ci sono dentro appunto questo lavoro di Rosenthal degli anni 80, come d'altronde poi il suo grande mentore Eno, che ha attraversato anche per molti aspetti la scorsa trasmissione appunto dedicata all'Home Made. Per iniziare questo viaggio appunto di 451, Sam Rosenthal con alcuni pezzi da Tanz Music. lavoro veramente notevole questo di Sam Rosenthal, che tra l'altro è un disco recuperato poi a tutti gli effetti, visto che è un lavoro sì degli anni Ottanta, ma che viene riscoperto un bel po' di anni dopo, proprio dalla sua Project, e quindi quando Rosenthal già stava diventando famoso di fatto con una carriera che comunque si era mossa soprattutto rispetto a quel discorso che facevo prima, quegli accenti dark, dream pop, come dire, sviluppo americano di certa 4AD, quindi con Black Tape, 4A Blue Girl, e stava in una sorta di misura anche riscrivendo delle musiche, delle atmosfere, anche delle emozioni che dentro le musiche sia appunto europee legate alla 4D che in quelle di Black Tape, For a Blue Girl, diventano veramente molto cristalline anche, e vengono quasi tolte infatti quel carattere appunto oscuro, soprattutto dei primi periodi, quelli legati a primi lavori di Dead Can Dance, di Cocteau Twins, per arrivare appunto a questa forma, soprattutto per quanto riguarda i secondi, questa forma di pop appunto anche molto molto legato a quello che sarà appunto il dream pop, e quindi tutte le varie faccende sono nate dalla fine degli anni Ottanta in poi. Partendo un po' da questo, con la formazione principale, ma avendo anche un certo riscontro, creando poi anche la Project, quindi l'etichetta con cui producerà sia lavori in proprio che lavori di altri, che sono anche, tra l'altro, provengono anche da quel movimento, micro movimento potremmo dire, legato alla trance californiana appunto dei primi anni Ottanta. E Rosenthal con Tanz Music, quindi questo lavoro recuperato dalla Dark Entries italianissima, che sta facendo lavoro veramente notevole di recupero di materiale decisamente importante anche per una ricostruzione, forse anche per una riscrittura delle musiche elettroniche di certi anni Ottanta, che sono sempre come dire stati visti come un suono, prima lo dicevo all'inizio appunto della trasmissione, anche quando appunto ci è spostati verso l'alternative, verso comunque musiche che non venivano considerate prettamente commerciali, poi di fatto insomma vendevano anche tanto, e quindi avevano un aspetto che sonoro che poi appunto riascoltandolo adesso, mi riferisco ad esempio, prima citavo Viceversa e poi ABC, ma si potrebbero citare perché no anche certi Cure, seppur in chiave decisamente più pop, però se pensiamo appunto ai primi lavori e anche al suono dei primi lavori, sì, Levigato, ma che ancora appunto lavorava su quella sporcizia legata poi magari anche così a rimandi appunto poetici, potremmo dire, scuri, crepuscolari, ecco, e poi dopo passando a un pop invece con un suono anche decisamente poi lì levigato dalla seconda metà degli anni Ottanta, con anche la capacità di essere decisamente così ficcanti, potremmo dire, in maniera pop, ma con un suono che comunque riascoltandolo segna anche tanto il tempo, è decisamente datato, nel senso che si può datare con una facilità immediata quasi, mentre invece lavori che erano sotto traccia come questo Tanz Music di Sam Rosenthal e altri lavori, la Dark Entries e anche altre etichette, insomma, stanno facendo questo lavoro. In particolar modo, insomma, stasera ricordiamo appunto la Dark Entries proprio perché abbiamo sentito il lavoro Tanz Music di Sam Rosenthal, e etichette che e discorsi che fanno riemergere forse musiche che erano appunto sotto traccia e che finalmente vengono liberate anche dalla loro forza di riscrittura, anche perché no, di certi appunto immaginari sonori, di certa e appunto storicizzazione anche che viene fatta appunto delle musiche, soprattutto appunto del decennio degli anni Ottanta, ricco da molti anni di un grande revival. E forse anche in questo senso il revival non è partito finché non si è anche recuperato appunto prima in filigrana e poi adesso invece in maniera proprio piuttosto palesata. Certe attitudini anche appunto sperimentali di quegli anni, non che mancassero, però insomma il discorso appunto era legato soprattutto a quella coda degli anni Ottanta che un po' l'aveva segnati e forse anche definiti poi per molti versi, con quel suono appunto quasi inascoltabile adesso, batterie elettroniche che suonano veramente fatte con lo stampino e faccende di questo tipo appunto legate al pop di quegli anni, ecco, appunto della fine della decade 80. E, un grande produttore, qua ci vuole veramente il suono, viene trattato con una maestria incredibile rispetto anche proprio alla sporcizia, a lavorare con materiali scabrosi, quasi potremmo dire, produttore dei Ramones, quindi va da sé che sapesse lavorare con la sporcizia sonora anche dei Talking Heads, vicino ai Suicide per un periodo, con Craig Leon si va a toccare un punto focale di quelle musiche americane wave che però avevano veramente fortissime inquietudini, in questo senso il post-punk americano, quindi anche con quegli attraversamenti no wave portava anche a momenti così eccezionali di creazione musicale dove si rompeva veramente anche quello che era da poco stato creato come cammino, come nuovo cammino, nuova onda della wave, già con Play Tape Ova Toia insieme, un recupero tra l'altro anche qua decisamente strano, decisamente fuori linea anche rispetto a quello che aveva fatto da lì a pochissimo lo stesso Craig Leon, sia in termini di produzione che anche con Nomos, capolavoro di una certa wave attraversata da strani quarti mondi, da musiche possibili e anche a volte impossibili. E, qua si recupera addirittura Arthur Brown, uno degli eroi del swing in London, delle psichedelie inglesi, oramai insomma negli anni Ottanta, come dire, nel dimenticatoio della storia, si recupera per un senso vocale, ma anche per un atteggiamento sempre bizzarro, sempre eccentrico, appunto di Arthur Brown, che ha conservato e che Craig Leon appunto indirizza in maniera geniale anche per molti aspetti di questo The Complete Tape Ova Toia, per continuare appunto e per forse anche fissare di quello che succederà appunto a molte musiche elettroniche, è una sorta anche di eclettismo che Craig Leon riuscirà appunto a creare, non ancora manierato come certe cose legate ma personaggi che fecero dell'eclettismo anche una sorta di maniera sonora. E, il primo che mi viene in mente, scusate un po' i nomi questa sera, insomma, che fioccano così, magari anche incidentalmente, una sorta di Joe Jackson che giocava appunto a fare l'eclettico, e su quello poi ha fatto appunto larga fortuna, manierando appunto anche quello che poteva essere un linguaggio interessante pop. E, appunto, Arthur Brown insieme a Craig Leon, o viceversa, Craig Leon insieme a Arthur Brown, dipende insomma da che punti di vista lo ascoltate, e con appunto questo Home Entertainment che continua dalle onde appunto di Radio Città Fujiko, non l'avevo neanche detto tra l'altro. Va bene, Craig Leon. come unire due personaggi che sembrerebbero veramente distanti, anni luce, e come soprattutto questo discorso della di questa unione possa creare strane figure sonore. Questo è raccontato appunto con una strambissima collaborazione tra Craig Leon e appunto Arthur Brown, come accennavo prima, uno di quelli che aveva segnato soprattutto con Fire delle psichedelie inglesi della fine degli anni 60, e un suono che appunto attraverso il trattamento casalingo, ma volutamente anche tale di Craig Leon, prende mosse sia da quello che stava succedendo in termini di Cold Wave, sia in termini di quindi di quell'elettronica wave molto, molto fredda, molto vicina a certo industrial, ma anche a forme che poi verranno riprese proprio in questi anni da molti, insomma, non solo emuli, ma anche da chi appunto riprende quell'attitudine in una chiave sperimentale. Tropic of Cancer, ad esempio, visto che sono stasera per forza devo uscire qualche nome che c'entra e non c'entra, tra l'altro con Sam Rosenthal, volevo parlare della Mannequin, non della Dark Entries, ma Dark Entries adesso appunto c'entra, e come Mannequin, tra l'altro, altra etichetta che produce come Dark Entries, quindi ci sta dentro il discorso che si sta facendo, tra l'altro anch'essa italiana, situata a Roma, con base anche, tra l'altro, a Berlino, con quindi anche tutto quel rimando alla Deutsche Welle, quindi alla new wave berlinese, che c'è dentro la musica di Mannequin, e Dark Entries, dialettica anche, perché no, rispetto alla appunto alla suddetta Mannequin, fa uscire lavori di altrettanta importanza proprio in questa sorta di scrittura che stiamo trattando questa sera qua, 451 dentro Entertainment, e Dark Entries fa uscire un lavoro qualche tempo fa, veramente anche qua di riscoperta non soltanto di certe musiche, di certe attitudini, ma anche proprio di riscoperta di certe figure, forse viste sì in una chiave anche interessante per quanto riguarda Patrick Cowley, senz'altro il momento di grande remixatore, sia con I Feel Love della Donna Summer insieme al Giorgio Moroder, nostri insomma così monumenti appunto sonori legati appunto alle techno, alle prime techno, e poi quell'altro lavoro, tra l'altro anche qua c'entra l'Italia, con Kathmandu, e quindi lavoro di remix incredibile, Ilso Kathmandu, dove appunto Cole sembra quasi che riesca veramente a far uscire materie astratte dalla disco, poi Cole per i lavori da solisti e per altri lavori di produzione sarà più conosciuto e riconosciuto come uno dei creatori della Energy, ma forse anche un po' facendo, come dire, scadere anche un modo molto interessante di trattare l'elettronica appunto di Cowley, e quella sperimentazione dance che però ha veramente sempre questa idea dell'altrove e di creare appunto un altrove anche sonoro, quindi con forme anche quasi astratte che ci sono dentro la materia appunto anche ritmica, potremmo anche dire, perché no, sperimentata da Patrick Cowley, appunto anch'esso californiano di San Francisco, legato appunto all'ambiente disco gay e anche appunto a quella grande esplosione che fu, ripeto, l'high energy, soprattutto in termini proprio di fenomeno, potremmo dire, ecco, estetico anche, ma qua vabbè, ci dilungheremmo veramente troppo tempo dentro certi anni Ottanta. Per il momento rimaniamo, e forse anzi, come dire, andiamo a riscoprire insieme a Dark Entries, oppure appunto come ha fatto per questo School Days, proprio una Patrick Cowley decisamente sperimentale, potremmo dire. Thank you. Patrick Cowley da School Days, ritrovando appunto, anzi scoprendo forse per la prima volta, seppur già dentro i lavori, anche il primo di Cowley a suo nome, edito insomma alla fine degli anni 70, si sentiva quell'impeto appunto e quella voglia di andare a sperimentare. Di Patrick Cowley, che tra l'altro non soltanto appunto con il recupero della Dark Entry si bene merita appunto etichetta italiana nel recupero di questi lavori, ma anche con il lavoro con George Socarras per Macro qualche anno fa appunto uscito, che fa appunto di fatto capire quanto poi Patrick Cowley fosse dentro anche la wave e dentro appunto quel suono che si era sviluppato comunque appunto anche in America, quindi molto molto dialettico rispetto anche appunto a suoni che sembravano molto diversi dalla disco, per cui è diventato anche piuttosto famoso, poi morto prematuramente, quindi anche con quel surplus insomma di mitologia legata appunto all'eroe disco, a questo caso che muore giovane, e con Catholic Boy si sentiva, con Catholic anzi si sentiva appunto quella wave che tra l'altro con George Socarras era di fatto tra le wave più interessanti, un progetto di Socarras degli anni 80, veramente un gioiello come Indoor Life, ancora non troppo conosciuto, ancora troppo isolato, con quella wave anche qua, con musiche possibili e veramente deragliamenti anche verso sonorità sul serio, potremmo dire, legate alla world music, come forse doveva essere, forse anche in questo senso qua se si sta riscoprendo la new age, riscrivendo anche per molti versi, beh forse bisognerebbe farlo anche con la world music, che è stata insomma potenzialmente musica di gran valore, ma con effetti insomma che non sono propriamente ecco, che erano dentro le possible music ad esempio di Brian Eno e di John Hass, tanto per citare probabilmente chi le ha create, ma con un altro intento insomma, la world music poi insomma diventata faccenda insomma più così di marketing che resto, con esiti appunto musicali piuttosto così di poco conto. Beh, la new age anche qua come dire attraversa microcosm che disco negato è un po' come già fatto per l'America per i tape delle prime divagazioni, potremmo dire, o vagazioni new age fatte dalla Like in the Attic, Visionary Music of Continental Europe, quindi legato all'Europa, mentre la scorsa volta appunto la Like in the Attic si era dedicata alle new age americane, con scoperte e riscoperte anche piuttosto interessanti. Beh, qua tira fuori veramente quasi dal cilindro e dal cappello il coniglio, e Susanna Docet e Christian Bonner, e con una Shivas Dance che appunto coglie questi due germanici e soprattutto la prima attrice anche abbastanza famosa in terra tedesca e poi folgorata negli anni 80 appunto da certa ambient molto vicina appunto alla new age, e Christian Bonner già di fatto dentro il suono new age, e comunque con appunto stramberie e momenti sonori anche di taglio potremmo dire appunto, come abbiamo definito prima, School Days di Coley, anche appunto se non sperimentali, con Coley forse si può parlare proprio in questo senso, beh, vicini a una sorta di ricerca sonora che dal bizzarro e dal meditativo si porta verso lidi anche abbastanza sconosciuti, che vengono appunto esplorati da questa bella compilation. Noi ci andiamo però appunto a sentire soltanto un pezzo da Microcosm, appunto questo della Suzanne Dochet che insieme a Christian Boehner con il loro Shiva Dance. Vi rimando a mercoledì prossimo o l'altro ancora, tra due settimane, per un prossimo appunto 451 frammenti sonori. Ciao, fate i bravi, da parte di Max Macchia, ovviamente. Ciao.